Thank you. Thank you. kaikki tunnemmekin hänet, joka riippumattomuudessaan liikkuu taivan pankolla. Mehän kaikki tunnemmekin hänet, joka hikisissä palleissaan antaa mennä vaan. Santa, vai tu. Arriva se non mi tu sta, è tata gusto, si è mai peo che sto di tanta buono, non che da guanta te soldi. Just thought I was facing a frog.